these are people that should be appreciated. He calls all the governors. I tell him, I mean, I'm a different type of person. I say, Mike, don't call the governor of Washington. You're wasting your time with him. Don't call the woman in Michigan. Eccoci qua, buongiorno Giulia Crivelli. Ciao. Nostro Trump quotidiano. Cosa annunciava in questo qui era una conferenza stampa di nuovo molto polemica con lo schema che conosciamo molto bene in Italia, dissapori, diciamo, usiamo questo eufemismo, tra governo centrale, quindi il presidente Trump, la sua amministrazione e il team guidato da Mike Pence, che lui asserisce non dorme da giorni, e i governatori degli stati, in particolare quello dello stato di Washington, dove sappiamo c'è stato il primo focolaio, e qui viene fuori tutta la misoginia di Trump. Non perché la frase è, pare lui l'abbia detta appunto al vice Mike Pence, non chiamare il governatore di Washington, non chiamare quella signora del Michigan che sarebbe la governatrice del Michigan, perché sono stati tra i governatori più pressanti sulle politiche di Trump. I giornali americani naturalmente oggi danno conto di tutte le novità, Wall Street Journal ha una bella foto di Central Park dove stanno allestendo un ospedale da campo, c'è la novità che nonostante Trump avesse detto spero che per Pasqua, quindi 12 aprile, le chiese siano piene, il paese riparte, in realtà tutte le misure che poteva con l'autorità del governo federale estendere le ha estese al 30 di aprile. E poi ci sono anche i suoi rating, perché nella settimana tra il 13 e il 22 di marzo, quindi i più recenti, nelle consuete rilevazioni dell'Istituto Gallup, lui è al 49% ed è un record da quando si è insediato nel gennaio del 2017. Quindi insomma, per ora comunque, nonostante tutti questi problemi, sembra che gli americani apprezzino il suo modo di affrontare la crisi da coronavirus. Che comunque ha avuto una evoluzione questa linea, va detto, forse più di quella che non ha avuto un altro leader di cui leggevo poco fa, Giulia, non so se avevi visto Bolsonaro, che il presidente brasiliano, che è andato a una manifestazione con i suoi sostenitori stringendo mani, facendosi selfie, violando le norme del suo stesso ministro della salute. Sì, guarda, ci sono i giornali brasiliani che addirittura ce n'è uno che fa un collage di 7 foto, una delle quali scattate proprio ieri senza mascherina, naturalmente, anzi senza alcun contatto, in una piccola folla di sostenitori. I governatori però anche lì ne danno conto, tutti i giornali brasiliani continuano invece a rafforzare le misure. Da Israele è arrivata proprio adesso la notizia che Netanyahu è in quarantena perché un suo strettissimo collaboratore è risultato positivo al coronavirus. Lì il problema viene segnalato soprattutto da Arez, dunque innanzitutto questo è esattamente come per noi cattolici cristiani è la stagione della Pasqua, per chi è di fede ebraica si avvicina Pesach, Passover, e anche il governatore Cuomo ha avvertito tutti, appunto, le persone di fede ebraica a passarlo in casa, a non andare in sinagoga. Poi se siccome sappiamo che non è una, cioè negli Stati Uniti sono raccomandazioni, non ci sono né multe né altro tipo di sanzioni, quindi si spera che seguano questo consiglio. Se vuoi, la cosa curiosa, la segnala Washington Post ma anche il Wall Street Journal, è questa, e qui veniamo alla flessibilità estrema del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Sì. È vero che da un giorno con l'altro puoi essere licenziato ma anche assunto, e così tutte le persone che non hanno più un lavoro nei negozi o nella ristorazione, nei bar, sono stati rapidissimamente riassunti in quello che il Wall Street Journal definisce il più grande spostamento dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, invece come addetti alle pulizie, alla sanificazione, alle consegne a domicilio e anche per esempio in tutti appunto questi servizi, anche negli ospedali, che naturalmente ne hanno più bisogno che in passato. Quindi insomma, qualcosa continua a muoversi, l'economia è in pausa, come ha detto ieri un commentatore alla CNN, però insomma sotto questa calma apparente si muove sempre qualcosa. Meglio di nulla, naturalmente, anche se passare da un lavoro all'altro così come palline in un flipper non è neanche il massimo della vita, però in questa situazione straordinaria cambiano chiaramente tutti i parametri. In Europa hai qualche notizia particolare? Il Paese ha apre proprio a tutta pagina con la fotonotizia, quella dell'ospedale da campo allestito vicino a Madrid, e poi però c'è questa intervista a Giuseppe Conte che sì, titolata con un virgolettato: il problema non è uscire dalla crisi, ma sapere esattamente quando uscirne. Devo dirti che, per quanto abbia tutta la mia empatia, perché nessun leader ha mai affrontato nel dopoguerra una crisi così, non è che Conte dica delle grandi novità, e del resto grandi novità anche sul fronte così appunto degli esperti non ne abbiamo, quindi si fortifica, diciamo, questa alleanza, questa comunanza di intenti tra il governo spagnolo e il governo italiano per quanto riguarda le richieste a Bruxelles, ma insomma grandi novità non ne racconta. Le novità dovrebbero arrivare dall'Europa, speriamo, ma per ora, diciamo, parlo in termini economici. Ancora certo, qualche secondo per la Germania, qualcosa? Sì, in Germania naturalmente sono tutti sotto shock per il suicidio. Avete saputo di questo politico tedesco che pareva essere, proprio l'aveva detto chiaramente, sì, essere, non riuscire a sopportare insomma questo stress, con tutte le conseguenze soprattutto economiche e sociali che ci saranno, e danno tutti molto spazio all'appello di Angela Merkel, che dalla sua quarantena ha detto a tutti: seid geduldig, che vuol dire abbiate pazienza, esercitate quest'arte antica della pazienza. I francesi invece ricorrono a un altro grande loro padre, insomma, della letteratura, che è Marcel Proust, perché l'editoriale di Le Figaro è Alla ricerca del tempo perduto. Almeno una citazione così che ci apre così anche degli spiragli letterari che in questi giorni abbiamo molto tempo a disposizione, possono sempre far essere utili. Grazie Giulia, ci risentiamo domani con te naturalmente. Anche per quanto riguarda Effetto Giorno è tutto, con Filippo Oreggi in regia, Danilo Di Trani in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata.